Restiamo in tema, visto che vi accennava Eleonora Micheli, di auto, perché abbiamo parlato di auto con, pensate un po', un manager tedesco, e quindi il ragionamento è stato auto, ma anche e soprattutto i timori di chi vende auto in Italia e vende un marchio famoso, si chiama BMW, e come vede il nostro paese da tedesco. È il numero uno di BMW Italia, Franz Jung, presidente, amministratore delegato. Il primo commento che abbiamo chiesto, chiaramente ha parlato in inglese, quindi è tutto doppiato, visto che in Europa un gruppo come BMW ha fatto più 0,2%, ma in Italia nei primi 5 mesi ha fatto meno 16%, la media è meno 19%, comunque meno 16%. Che aiuti o politiche, diciamo, per il settore possono immaginare, aiuti chiaramente a livello italiano? È la prima domanda che abbiamo posto a Franz Jung. Well, let's concentrate on the figures and a little bit on the past. Dunque, direi che vale la pena soffermarsi sia sulle cifre, ma anche su quanto è successo in passato. In Italia il mercato dell'auto è in crisi dal 2008. Da allora il mercato è sempre sceso, anche se da fine 2011 il mercato italiano sta affrontando problemi molto seri. Non solo noi come BMW, ma tutta l'industria dell'auto sta soffrendo. Perché? Oltre alle difficoltà economiche che il paese sta attraversando, nel settore auto le criticità sono molteplici. Abbiamo visto aumentare la tassazione sull'auto, sono saliti i costi per benzina e assicurazioni. Il risultato è che le quattro ruote attraggono sempre meno consumatori. Penso che aiuterebbe molto se ci fosse una chiara strategia e se i consumatori sapessero cosa intende fare il governo per il settore auto? Ad esempio, per le auto piccole, così come per quelle grandi e potenti, e quali sono i piani sulla mobilità elettrica? Se tutti questi punti venissero affrontati, allora ci sarebbe chiarezza. Ma ora nulla è chiaro. Ecco, seconda domanda che abbiamo fatto sempre a Franz Jung sul settore auto, appunto oggi in pesante calo in tutta Europa, è per quello che riguarda però il mercato italiano, se c'è qualcosa che al di là del governo e degli interventi statali eventuali, ma non certi, anzi, si possa fare, oppure se i produttori, a maggior ragione quelli di fascia alta, come BMW, Mercedes, Audi, devono rassegnarsi al fatto che i numeri del 2005, 2006, 2004 non torneranno più. Non sono così sicuro che lei abbia ragione. Io sono concentrato sulla nostra linea di produzione e sui progetti futuri. C'è chiaramente una tendenza verso macchine più piccole, con motori meno potenti, e BMW si sta muovendo su questo fronte. Vedremo modelli più piccoli in futuro e forse avremo anche la possibilità di tornare ai numeri del passato nel segmento premium. Se guardiamo per esempio al nostro marchio, Mini sta beneficiando di questa tendenza di mercato. Esiste dunque la possibilità di orientarsi verso una varietà di modelli, forse non più tanto verso quelli di fascia alta, ma quelli di fascia più bassa ci danno soddisfazioni. Ah.